L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata nella quale concluderemo il viaggio che Radio 24 ha dedicato nel corso dei giornali radio della settimana, il viaggio, dicevo, sulla mobilità e l'inquinamento atmosferico che affliggono sempre le nostre città, ma in particolare in questo periodo autunnale. Per parlare di questo argomento abbiamo richiamato, siamo molto felici che abbia accettato l'invito, Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l'Aria, benvenuta. Buongiorno. E Anna, abbiamo pensato a te perché abbiamo parlato in questi giorni, nei giornali radio appunto, soprattutto di automobili, e in realtà con te avevamo affrontato anche un altro aspetto di inquinamento ambientale delle città, che è quello delle navi. Sì, inquinamento infatti. Portato dai carburanti delle navi, in particolare lo zolfo. Era questo il problema di cui avevamo discusso, direi prima dell'estate circa, no? Sì. E quindi volevo con te fare il punto su questa situazione, e poi ci sono tantissimi altri argomenti. Nel corso di questa puntata parleremo anche di città con il sindaco di Valdengo. Dite voi, perché il sindaco di Valdengo è un centro piccolissimo del Piemonte? Perché lui è il vicepresidente nazionale dell'ANCI, è stato a Quito per un appuntamento internazionale tra sindaci delle città del mondo, che sono presi degli impegni seri in cui direi che il sindaco di Valdengo crede molto, ma comunque poi ci racconterà lui sul miglioramento delle condizioni di vita nelle nostre città. Ma come dicevo, prima di parlare con Roberto Pella e prima di tornare nel traffico auto, parliamo di navi. Allora, come stanno andando le cose? Ci eravamo lasciati sul punto della vostra battaglia, accompagnati da una ONG tedesca che avevamo anche ospitato, per portare carburanti puliti nel Mediterraneo e quindi provocare meno inquinamento cittadino. Beh, diciamo che in questo momento le novità, diciamo, sono state la pubblicazione di questo rapporto di classifica, diciamo, di sostenibilità ambientale delle navi da crociera, che ne sono uscite veramente malissimo. E l'abbiamo pubblicato circa una ventina di giorni fa. Risulta che in pratica tutte le navi da crociere che percorrono il nostro mare non sono dotate di filtri, non usano carburanti a basse emissioni, e quindi di fatto quando uno si illude di andare in crociera immaginando spazi aperti, aria pulita. Aria pulita, di fatto sta in qualche modo favorendo un'industria il cui peso sta crescendo in modo veramente esponenziale. Sappiamo che è una delle il peso nel senso di impronta peso, ambientale, impronta ambientale, certo. È una, fra l'altro, delle industrie veramente in crescita anche dal punto di vista economico, quindi negli ultimi anni, sì. È molto importante il fatto che le persone siano sensibili a questo punto di vista e ci sostengano nel chiedere agli armatori di cambiare modo di esercitare la loro industria. L'industria delle crociere può funzionare, ma deve funzionare anche in quella direzione, anche in quella anche funzionare verso. Senti, ma mesi fa mi ricordo che avevamo presentato ai nostri ascoltatori quanto accaduto nei mari del nord, dove questa battaglia è già stata condotta e dove tutti si sono conformati a un nuovo codice di regole più amiche dell'ambiente. Sì, infatti, quindi possiamo portarla anche qua questa battaglia sicuramente. Infatti fra l'altro è uscito una ventina di giorni fa. Sono sempre le stesse compagnie fa. Poi dopo, certo, no? Crociere nel nord, certo. Crociere nel sud, crociere... Certo. Trasporto mercantile, adesso abbiamo detto crociere perché il rapporto era quello, ma ci sono tanti tipi di trasporti per mare. Certo, un mesetto fa è uscita un rapporto fatto proprio da NABU sull'impatto NABU che ha avuto l'associazione. NABU, l'associazione tedesca che è capofila anche del nostro progetto nel Mediterraneo, che ha fatto un'analisi di quanto effettivamente si sono ridotte le emissioni e gli inquinanti nel mare del nord, e si sono ridotti del 50%, quindi un risultato in un anno di operatività di questo limite allo 0,5 di tenore di zolfo, effettivamente il risultato si è ottenuto in un brevissimo tempo. Oggi come oggi in Italia abbiamo fra l'altro un'opportunità straordinaria, perché nell'adottare la direttiva sul contenuto di zolfo dei carburanti, l'Italia ha modificato il codice dell'ambiente con una norma straordinaria. Che è andata oltre, vero? Le direttive, qualunque speranza potessimo avere. È andata oltre i tempi e oltre le ambizioni dell'Europa, prevedendo che nell'Adriatico nel 2018 e nel Tirreno nel 2020 si adotterà un limite al tenore di zolfo dello 0,1, quindi molto più basso, a condizione però che gli stati frontalieri dell'Adriatico e del Tirreno adottino norme simili. Ora, questo è un po' particolare, far dipendere la nostra legge da quello che faranno gli altri. Esatto. Quindi l'ambizione è alta, esatto, però la condizione è particolarmente onerosa. Assolutamente. Quindi la domanda oggi che noi poniamo al nostro mondo politico, presumendo che effettivamente ci sia stata un sostegno compatto all'idea di ridurre le emissioni nei nostri navi, nei nostri mari, è effettivamente quella di fare sì che questo non sia un greenwashing statale, ma che oggi come oggi chi ha sostenuto quella modifica, che è effettivamente estremamente ambiziosa, estremamente positiva, si metta al lavoro intorno a un tavolo e noi gli daremo tutto il sostegno che potremo per fare sì che anche la Croazia prima di tutto, quindi gli stati dell'Adriatico, modifichino le loro norme in modo tale che effettivamente si possa creare una zona a basse emissioni, prima di tutto nell'Adriatico, che è un mare particolarmente vulnerabile, anche perché diversamente dal Tirreno, che è completamente zona di protezione ecologica e quindi all'interno del quale si applicano le norme entro tutto il bacino del Tirreno, nel bacino dell'Adriatico purtroppo questo non è stato fatto, cioè non è stata fatta una zona di protezione ecologica che ricomprende tutto il mare Adriatico, e quindi di fatto le norme nostre si applicano solo nelle 12 miglia dalla costa. Quindi effettivamente il fatto di creare una zona diciamo di a basse emissioni nell'Adriatico è molto importante che venga accolto da tutti i paesi frontalieri che si affacciano sull'Adriatico. La direttiva europea a cui si rifà il nostro codice dell'ambiente comunque prevederebbe questo miglioramento, diciamo, al 2020. Sì, certo. Salvo il fatto che sia Adriatico, Tirreno e compagnia. Sì, salvo il fatto che in questo momento la direttiva in realtà prevede la possibilità che nel 2018 si valuti l'opportunità di rinviare l'entrata in vigore di questo limite al 2025, nel qual caso quindi il limite per il Mediterraneo si allontanerebbe tantissimo, perché di fatto passerebbe dal 2020 al 2025 e slitterebbe ancora di 5 anni. Quindi ti devo chiedere due cose, perché il tempo poi ci sfugge. La prima è se possiamo tornare a parlarne magari tra una quindicina di giorni proprio di direttive europee per quel che riguarda l'inquinamento, perché non è solo questa che sta subendo delle dilazioni, rallentamenti, anche diventando più lasco come regime, no? Quindi possiamo parlarne, lo annunciamo già tra una quindicina di giorni. L'altra questione è invece, non solo per l'Adriatico ma per tutti i mari del Mediterraneo, c'è un movimento anche in Francia, in Spagna, con il quale voi state collaborando, le altre associazioni, insomma. Quello che noi siamo in collegamento con le altre associazioni europee, ma in particolare stiamo tentando di attivare in Italia delle azioni nelle città di porto. Una delle cose che abbiamo fatto 15 giorni fa è scrivere a tutte le capitanerie di porto. In questo momento ci auguriamo di poter entrare in contatto col capitano in capo dei capitani di porto per chiedere loro di dare attuazione a una circolare che il Ministero dell'Ambiente molto saggiamente ha fatto a giugno del 2016, chiedendo alle capitanerie di porto di fare controlli serrati sulle navi da crociera e sui livelli di zolfo dei carburanti utilizzati da queste. E chiediamo anche alle capitanerie di porto di rendere i dati dei controlli e delle eventuali multe trasparenti, da un lato per rasserenare i cittadini che vivono nelle città di porto del fatto che effettivamente le autorità preposte stanno facendo i controlli, stanno adoperandosi per fare in modo che la situazione migliori, e dall'altro per sanzionare come immagine o viceversa premiare quelle compagnie che effettivamente vengono o non vengono trovate utilizzare un carburante vietato per legge. Quindi chi è il capitano delle capitanerie? Un italiano, un francese, uno spagnolo? Ti sfugge? Lo cerchiamo, confesso, per che poterli non lo so, anche però noi chiedere. Mi hanno già promesso di metterci in contatto e mi auguro veramente, questa sarebbe un'opera di trasparenza assolutamente dovuta da parte del nostro governo. Sono dati ambientali, quindi sarebbe giusto che tutte le capitanerie di porto mettessero nel loro sito queste informazioni e tenessero costantemente come i cittadini. Fa in città, con le centraline dello smog. Grazie ad Anna Gerometta per essere stata con noi anche in questa puntata dell'Altro Pianeta. Facciamo una pausa, ma continuiamo tra pochissimo. L'Altro Pianeta. Di nuovo un buon pomeriggio da Laura Bettini. Ci siamo lasciati poco fa con Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l'Aria. Vi abbiamo annunciato fin dall'inizio di questa puntata che sarebbe stato nostro ospite anche Roberto Pella, che è il vicepresidente nazionale di ANCI, è sindaco di Valdengo, una piccola località piemontese, reduce da un grande viaggio a Quito. Benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno a lei naturalmente. Io sono arrivata a lei leggendo di un suo viaggio e di un impegno che i comuni italiani attraverso di lei hanno preso a Quito, dove si svolgeva la conferenza ONU Habitat 3. Di che si tratta e che impegno avete preso? Beh, è un impegno importante soprattutto perché mette al centro di quella che è l'attività i comuni. Credo che oggi ogni cittadino veda nei comuni la possibilità maggiore di poter in qualche modo utilizzare e sfruttare quelle che sono le sue opportunità. Questa agenda, che naturalmente è importante perché comunque oggi oltre il 50% della popolazione vive nelle città, cerca in qualche modo di mettere in luce quello che tutti assieme dobbiamo fare per combattere le malattie importanti come oggi stanno colpendo in modo particolare la nostra popolazione, quella che è la diabete, che è purtroppo una malattia che oggi non è particolarmente considerata, mentre l'America ne sta prendendo in qualche momento sempre più coscienza, e che sta incidendo fortemente su quelli che sono i nostri stili di vita e soprattutto su quelli che sono i costi sanitari che lo Stato, i comuni e in modo particolare le regioni sostengono. Come ben tutti sappiamo, incidono dell'80-83% su quelli che sono oggi i bilanci regionali stessi. Quindi noi proponiamo una iniziativa che in qualche modo metta al centro il cittadino, ma nello stesso tempo che veda i comuni e tutti gli altri attori protagonisti di quella che deve essere una nuova stagione di sostegno a quello che è le iniziative e la possibilità di rendere più possibile, fruibile e agibile la vita dei nostri concittadini. Lei ha detto tante cose belle, tante cose interessanti, soprattutto mi piace l'idea della nuova stagione, perché appunto siamo arrivati a un momento un po' stanco, un po' morto, cioè si è parlato tanto di nuove politiche per le città, di nuovi limiti, penso alla parte che riguarda l'inquinamento atmosferico, ma anche tutto il lavoro sulle piste ciclabili. Ci siamo un po' arenati però. Guardi, lei ha centrato perfettamente il punto, anche perché se lei considera che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948 definiva la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, cosa si è fatto dal 48 oggi? C'è stato un grande impatto iniziale, poi come diceva giustamente lei si è un po' arenato il tutto. Proprio nell'86 poi, quando ci fu la prima conferenza internazionale sulla promozione della salute a Ottawa, fu posto delle basi sulle quali, devo dire, alcuni paesi hanno fatto molto, altri hanno fatto poco, ma indubbiamente quello che oggi si deve fare è un qualcosa di assai significativo, soprattutto perché nei prossimi decenni la popolazione urbana passerà da un 50% al 70%, 70% della popolazione globale. Lei consideri che solo in Italia, tanto per rimanere nei nostri confini, il 37% della popolazione risiede nelle 14 città metropolitane, e quindi ecco che il tema della salute sta diventando una priorità di azione amministrativa da parte di tutti i sindaci. Noi su questo fronte credo che stiamo lavorando in modo particolare su due linee che le riteniamo le più accessibili per i cittadini. La prima è quella con un grande accordo che abbiamo fatto con la Federazione Italiana di Atletica Leggera, che indubbiamente hanno il maggior numero di atleti a livello nazionale, che è quella di valorizzare al meglio i nostri parchi rendendoli delle palestre a cielo aperto, cosa che in molti stati già avviene, consente l'utilizzo gratuito di questi spazi, consente a ogni cittadino di andare in qualsiasi ora del giorno che ritiene e dà anche l'opportunità quindi di poter fare giochi, di poter fare corsa, di poter attrezzarli anche con delle mini attrezzature che possono da palestra, diciamo, tipo del percorso vita, quel genere di attrezzatura. Da percorso vita, guardi, io non voglio nominare nessun comune perché non voglio offendere o rendere onore a un sindaco rispetto Vabbè, nomini il suo, lei l'ha fatto. indubbiamente, percorso vita oggi in un comune io ritengo che sia una delle priorità. Nello stesso tempo, come dicevo, la seconda parte dell'iniziativa che stiamo portando avanti è quella che, con un accordo che abbiamo fatto con l'Istituto Credito Sportivo, un finanziamento di 160 milioni che è partito il 5 di ottobre e terminerà alla fine del mese di novembre, per consentire a tasso zero, e quindi questo è un grande vantaggio per i comuni, di fare determinati interventi sull'impiantistica sportiva, ma soprattutto abbiamo inserito come priorità quello che lei mi accennava prima delle piste ciclabili, che probabilmente si sono un po' arenate nel corso di questi anni. Qui non voglio entrare nella materia troppo tecnica, perché sicuramente chi ci ascolta magari vuole sentire delle cose più pratiche rispetto a delle cose teoriche, ma per renderlo più semplice, purtroppo il patto di stabilità europeo che vincola il governo, che il governo a sua volta vincola comuni e regioni, ha limitato fortemente la capacità di incidere su quelle che sono le spese o correnti o di investimento in materia sportiva e non solo, e quindi questo sicuramente ha prodotto un rallentamento di quello che invece noi oggi vogliamo dare maggior spinta, sia sulle palestre a cielo aperto, ma soprattutto di valorizzare sempre di più e rendere più fruibili le piste ciclabili. Dunque, quindi, fin qui abbiamo detto più collaborazione, molta unione tra le città, non solo d'Italia, ma anche europee e mondiali addirittura, più collaborazione con le società sportive o comunque le grandi come il CONI, che possono aiutare a diffondere una cultura diversa e quindi fare parchi appunto sportivi a cielo aperto. E l'altra parte può essere anche un po' di controllo, magari da un punto di vista, no, della salute delle città, di quello che c'è nell'aria che respiriamo, nei nostri parchi, nelle nostre acque, eccetera, eccetera, e un po' di incentivo a togliere un po' di, no, potrebbe essere di traffico o di inquinanti in generale. Indubbiamente noi, come le dicevo, vogliamo incoraggiare l'utilizzo delle modalità di trasporto, sia tramite la creazione di queste strade, piste ciclabili, sicure, ma anche attraverso un migliore sistema efficiente del trasporto pubblico locale. Pensiamo a Roma, pensiamo a alcune città, quante difficoltà hanno. Prevedere anche naturalmente un'attività di sensibilizzazione anche dei cittadini verso quelle scelte che devono essere efficienti dal punto di vista non solo economico, ma anche dal punto di vista ambientale. Ecco che su questo le devo dire che dobbiamo fare una forte azione di alfabetizzazione a livello scolastico e non solo, perché io credo che noi dobbiamo portare l'educazione sanitaria sempre di più nei programmi di scuola, sempre di più nei programmi scolastici, perché guardi, c'è un esempio ben chiaro: la nostra generazione la raccolta differenziata l'ha sempre fatta male o poco, la generazione di mia figlia che ha 11 anni la sta imponendo a me padre, perché comunque si è creata quella cultura, quella capacità di comprendere, di capire che la raccolta differenziata è qualcosa di importante. Come dobbiamo in qualche modo promuovere la cultura alimentare, dobbiamo in qualche modo anche considerare la salute nelle fasce più deboli e anche nell'inclusione sociale, appunto in quello che è il contesto urbano, e su questo sicuramente dobbiamo adottare delle politiche tese a migliorare le condizioni di vita sociale ed economiche anche nei quartieri, in modo particolare quelli disagiati, o portare le città ad allinearsi a quegli standard più elevati di accessibilità e fruibilità dei servizi urbani per le persone disabili, adeguando anche quelle infrastrutture sanitarie come la viabilità o l'accesso ai servizi pubblici o i marciapiedi, che oggi purtroppo sono cose che in molte realtà mancano stesse. Ed infine, visto che lei mi pone anche con chi giustamente collaborare, io le devo dire che in questo nostro progetto, in questo nostro manifesto, chiediamo un'alleanza forte, oltre che con i cittadini, anche una forte alleanza con le università, con le aziende sanitarie, con i centri di ricerca, con le industrie, con i professionisti, cioè creare una cabina di regia per lo studio e monitoraggio dell'impatto di questi standard di salute nel contesto urbano e potendo in qualche modo collaborare tutti assieme su un unico obiettivo. E promuovere quindi in qualche modo anche attraverso una portazione di stakeholder, anche di finanziamenti, anche di impulsi che possiamo dare alla Commissione europea, di considerare anche lo sport e quindi l'investimento in materia impiantistica come un investimento prioritario in quelli che sono i fondi strutturali europei, perché non sono solo fondi strutturali una grande strada, un aeroporto o un ponte sullo stretto, come ha detto ultimamente il Presidente, cioè, ma possono essere investimenti anche strutturali proprio queste iniziative che in qualche modo in una politica de Gasperiana, che se oggi mi consente purtroppo manca completamente alla classe politica, così in un periodo magari di 20 anni o anche di 30 anni abbattere di una percentuale così elevata i costi sanitari, che sprigiona possibilità di investimento su tanti fronti, che possa essere anche quello non solo sportivo ma quello culturale, quello del turismo, quello del benessere e certo, tante altre iniziative. Che Dio le conservi questo entusiasmo, diciamo, e insomma speriamo veramente che riusciate a fare passare una linea che per ora, come diceva lei, purtroppo non è ancora passata. Basta pensare alle riqualificazioni energetiche, a mille cose che possiamo fare nelle nostre città per ridurre gli sprechi, i malesseri, i malumori, mille cose veramente si possono fare. Noi come ANCI ci impegniamo fortemente, anche il nostro nuovo presidente De Caro, sindaco di Bari, è sensibilissimo a questi aspetti. Io sono stato nominato relatore per conto di tutti i 28 paesi al Comitato delle Regioni proprio su questo parere di iniziativa. Io sono ottimista, ma in questo caso ne sono certo, possiamo produrre dei buoni risultati per tutti. Allora, lei il mio numero ce l'ha, Radio 24 volentieri ospita lei e tutte le vostre iniziative, quindi in bocca al lupo, buona giornata e grazie ancora per il collegamento. Grazie a lei infinitamente e spero che insomma i cittadini possano in qualche modo essere un pochettino oggi più felici di vedere comunque che c'è un'associazione nazionale dei comuni italiani che ci crede fortemente su questi temi. Grazie, grazie davvero. Ed è tutto per questa puntata, ci fermiamo qui, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.